America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo subito con le notizie elettorali perché il New Hampshire ha fatto vittime. Il risultato elettorale del New Hampshire ha alla fine costretto al ritiro, pensate, Chris Christie, il governatore del New Jersey, che ha messo fuori gioco Marco Rubio nel dibattito di sabato sera. È anche uscita di scena Carly Fiorina. Mi domando cosa stia aspettando Ben Carson, forse vuole aspettare la South Carolina, però con le prossime elezioni, 20 gennaio, direi che il numero scenderà ancora. Arriveremo, io credo, alla fine a 4 concorrenti, e cioè Ted Cruz, Trump naturalmente, Marco Rubio e alla fine vedremo o Jeb Bush o John Kasich, uno dei due. Passerei alla parte centrale della puntata di oggi, cioè la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, devo dire, la visita a New York è stata importante soprattutto per un elemento centrale, quello della candidatura italiana al seggio che sarà vacante alla fine di quest'anno, seggio a rotazione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il biennio 2017-2018. Ecco, fatto una breve chiacchierata col Presidente della Repubblica, ve la propongo. Buongiorno Presidente, può dirci qualcosa degli incontri di questa mattina al Palazzo di Vetro? Sì, sono due incontri molto interessanti con il Presidente dell'Assemblea Generale e con il Segretario Generale dell'ONU. Sono serviti anzitutto a ribadire l'appoggio pieno e convinto dell'Italia all'azione dell'ONU, la partecipazione attiva che l'Italia svolge in tanti settori, e in più è servito questo incontro a affrontare alcuni temi del momento. L'ONU ha programmato per la prossima Assemblea Generale alcuni appuntamenti importanti, dibattiti di approfondimento su temi decisivi che sono l'attuazione delle intese sullo sviluppo sostenibile, l'attuazione delle intese per il clima raggiunte a Parigi. Abbiamo parlato di questo, abbiamo condiviso pienamente le intenzioni del Segretario Generale, del Presidente dell'Assemblea Generale, abbiamo ribadito il nostro sostegno. Abbiamo registrato con soddisfazione il grande apprezzamento per l'Italia per il contributo che fornisce politicamente, che fornisce da un punto di vista anche come contributore finanziario. Ecco Presidente, lei ha parlato di economia con Barack Obama e del fatto che c'è una crisi in corso e l'America vorrebbe da parte europea meno austerità e un pochino più di azione fiscale. Il nostro governo ha cercato di ottenere più flessibilità. Ecco, lei ritiene che l'Europa debba essere più flessibile in questo momento di crisi? Con il Presidente Obama abbiamo parlato del TTIP, del trattato, del progetto di trattato tra Unione Europea e Stati Uniti. E naturalmente questo è stato lo spunto per parlare anche delle esigenze di ripresa economica contro le crisi che sono quelle che si è realizzata in questi anni così sofferti, e sperando che si riesca a prevenire qualunque altro fenomeno di crisi che possa presentarsi. Per quanto riguarda la flessibilità, è nota la posizione del nostro Paese che occorrerebbe nell'Unione Europea una politica di maggiore spinta alla ripresa, di maggiore espansione, anche perché l'austerità l'abbiamo applicata con serietà, con rigore, abbiamo assunto politiche anche rigorose, con sacrifici noi ed altri paesi. Crediamo che sia il momento di una politica di impulso alla ripresa, agli investimenti e all'occupazione. Ecco, avete sentito in queste dichiarazioni del Presidente della Repubblica, secondo me sono piuttosto importanti. La prima naturalmente chiarisce qual è la posizione dell'Italia nel contesto delle Nazioni Unite, che è una posizione di primissimo piano. Siamo il settimo contributore ai fondi dell'ONU, siamo il primo per contribuzione alle forze di pace. Poi Mattarella ha parlato di Libia, argomento molto importante, con il segretario generale dell'ONU. Sentiamo. Abbiamo convenuto che la chiave di tutte le questioni è costituita dalla costituzione immediata di un governo di unità nazionale libico, e quindi tutti gli sforzi delle Nazioni Unite, del suo inviato speciale, dei paesi che condividono questa linea, sono un grande numero naturalmente, è quella di aiutare in tutti i modi i libici a trovare un'intesa velocissima per costituire un governo che così possa ricostituire nel territorio dello Stato libico un'autorità centrale che possa sconfiggere i trafficanti di esseri umani, possa cancellare l'insediamento che si manifesta minaccioso di Daesh e possa por fine alla guerra civile che affligge i libici, obiettivo naturalmente prioritario. Il seggio all'ONU, Presidente. Ieri si è incontrato con molti ambasciatori che poi votano per dare magari all'Italia la possibilità di avere un seggio al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2017-2018. Ecco, qual è stata la sua sensazione qui all'ONU e da quell'incontro? Non è stato un incontro di campagna elettorale, anche perché vi era presente qualche concorrente. Naturalmente noi teniamo molto a questa, la nostra candidatura, teniamo molto a poter dare un contributo anche in quella sede autorevole alla vita delle Nazioni Unite. Siamo fiduciosi sul risultato, di questo naturalmente non si è parlato col segretario generale perché non è argomento che il segretario possa trattare, ma l'azione del nostro ambasciatore, del Ministero degli Esteri è molto attiva e le simpatie nei nostri confronti sono tali che fanno ben sperare. Ma lei è pronto a fare campagna, Presidente? È una domanda strana questa. Campagna elettorale la fanno i Presidenti. Siamo qui in tempo di primarie. Per questi obiettivi le campagne si svolgono con le buone relazioni, con la credibilità e l'affidabilità. Ecco, avete sentito uno scambio simpatico, quello con il Presidente della Repubblica, soprattutto sulla questione della campagna. In realtà Mattarella qui è venuto anche per fare campagna. La si deve fare questa campagna elettorale. Gli altri paesi la fanno, spendono enormi quantità di quattrini addirittura per promuovere la loro candidatura. Mi riferisco in particolare a Svezia e Olanda, che sono i nostri concorrenti più diretti. E di sicuro Mattarella ha ragione sul fatto della leadership. Però dov'è il nostro punto di debolezza? La leadership deve essere a tutto tondo e dunque deve essere anche nel settore della cooperazione. Questo aspetto per noi è molto importante, intanto perché ci consente di avere buone relazioni con paesi emergenti, paesi che poi votano all'ONU e come sapete ogni paese ha un voto, dunque non è che un'isoletta minuscola vale meno degli Stati Uniti d'America. Ecco, su questo la Presidenza del Consiglio sta cercando di fare dei passi in avanti, e però per darvi un'idea, mentre noi in questo momento abbiamo lo 0,16% del PIL diretto alla cooperazione, l'Olanda lo 0,80%, la Svezia l'1,2%, in termini assoluti noi per una proposta del governo arriveremo forse a poco meno di 500 milioni di dollari, lo 0,25 del PIL, mentre l'Olanda 7, la Svezia quasi 5 miliardi. Ecco, anche su questo campo si gioca la partita, non solo per il seggio delle Nazioni Unite, ma per una relazione coerente con paesi importanti per noi, con paesi emergenti, e devo dire ho parlato con fonti vicine al Presidente della Repubblica che condividono la necessità di muoversi alquanto rapidamente e urgentemente verso la costituzione di fondi aggiuntivi proprio per la cooperazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato della necessità di costituire nuovi fondi per la cooperazione, abbiamo parlato dunque di soldi importanti per mantenere buone relazioni anche coi paesi emergenti, dunque dei Pink Floyd, Money. Money. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!